Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli. Noi partiamo subito dalla voce di Jyrki Katainen, il vicepresidente della Commissione europea per la crescita, gli investimenti, la competitività. Lo sentiamo, stamattina è stato l'appuntamento consueto con il forecast autunnale, quindi le previsioni d'autunno. Allora, il quadro è stato un lunghissimo intervento, accanto a lui Pierre Moscovici, dunque il nuovo team economico della nuova neonominata e costituita Commissione europea a guida Juncker. Le notizie, come era atteso, peraltro non sono buone. Da una parte riguardano l'Italia, come già forse avete sentito nel racconto di Beda Romano da Bruxelles, la Commissione europea sostanzialmente avverte che il disavanzo italiano è destinato a raggiungere questa al 3% del prodotto interno lordo, torna all'orizzonte così il rischio di una procedura per deficit eccessivo, quella che già qualche giorno fa insomma sembrava evitata. L'esecutivo comunitario, che parla di fragile ripresa l'anno prossimo, ha inoltre rivisto al ribasso le stime di crescita nel 2014 e nel 2015. A livello di zona euro la Commissione considera d'altra parte piuttosto improbabile un'esplicita deflazione. Ecco, Katainen e Moscovici ci sono anche intervenuti sul tema euro, rispondendo alla domanda di un giornalista inglese che sostanzialmente diceva com'è che dove non c'è l'euro si cresce di più di quanto di dove invece l'euro c'è, e dice le previsioni è vero che sono le più deboli del mondo, dice Katainen, ma questo non dipende dalla valuta che durante la crisi è stata più stabile delle valute nazionali ed è quindi difficile immaginare come staremmo se non ci fosse stato l'euro. Insomma, questa la risposta. Naturalmente entrambi i due leader europei, di fatto lo ricordiamo, i responsabili di due portafogli davvero chiave, hanno insistito sul fatto che dal tempo dell'austerità e dal tempo del rispetto quindi dei conti e della riduzione del debito si accompagni in questa fase, in particolare bisogna dire Moscovici, dunque il francese, si accompagni la fase degli investimenti. Insomma, questo per quanto riguarda la giornata di Bruxelles, ma si è parlato d'altro e in particolare in altre stanze della assenza ancora di una politica europea per la tutela dei minori. In realtà se ne parla da diversi anni, ma ancora non esiste una soluzione comune. Allora con Valentina Furlanetto facciamo il punto su questo tema sensibile, eppure non ancora normato a livello europeo. Un bambino ogni due minuti scompare, di lui non si trova più traccia. Sono 250.000 i minori che ogni anno risultano scomparsi nell'Unione Europea. Secondo l'UNICEF nel 2007 il traffico di minori nel continente riguardava ogni anno 2 milioni di bambini. Un bambino su 5 diventa poi vittima di abusi sessuali. Un'altissima percentuale di questi, fra il 70 e l'85%, subisce gli abusi da una persona che ne è familiare o conoscente. Le forze di polizia dei diversi paesi faticano a collaborare per le differenze di giurisdizione fra una nazione e l'altra. Quello che è reato per il codice penale di un paese si traduce in un altro reato nel codice penale di un altro. Una mancanza di definizioni equiparabili che si traduce poi in una mancata azione. Il caso di Maddie McCain, la bimba britannica che scomparve in Portogallo, in Algarve qualche anno fa, è stato il tipico esempio di una mancanza di coordinamento europeo. Per questo i genitori della piccola hanno chiesto alla Commissione europea che si lavori su un sistema di allerta comune sul modello del sistema Amber adottato negli Stati Uniti e che ha consentito nel 2007 di ritrovare 68 bambini scomparsi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo per adesso è tutto, con le nostre notizie europee che naturalmente tornano questa sera e poi domani alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.